ma ci sono anche altri modi, diciamo, più informatizzati per contribuire, che trovate sul sito di questa radio, che è ondarossa.info, e il modo forse più piacevole di tutti, cioè quello di venire qua a trovarci per contribuire alla radio e magari vedendoci anche in faccia, insomma. Cominciamo questa puntata dell'Ora di Buco, cominciamo da fuori, dai confini dell'Italia, dalla Grecia. Sì, insomma, ogni tanto vi parliamo di quello che succede in Grecia per quello che possiamo riuscire a sapere, e sono anni che nelle scuole greche e nelle università greche c'è una grande mobilitazione, come nel resto del paese, e spesso gli insegnanti e le insegnanti sono scesi in piazza e insomma sono stati anche malmenati dalla polizia, che non fa sconti ovviamente in questo paese, in quel paese, ma nemmeno in questo, e continuano però comunque, insomma, a manifestare e a lottare, perché lo stesso attacco che viviamo all'istruzione qui in Italia avviene in Grecia già da diverso tempo. Per quanto riguarda per esempio l'università, già un anno fa si è compiuto un po' il disegno di tagliare anche all'interno degli Atenei, accorpando dipartimenti e quindi portando anche a licenziamenti, è ovvio. E oggi vi parliamo di una lettera di una preside di una scuola elementare, la quarta scuola elementare di Colargos, che non so dove sia, ho dimenticato di guardarlo onestamente, sarebbe anche interessante sapere che zona. La lettera è dell'11 aprile, quindi è recentissima. La preside si chiama Dessi Panagiotopoulou, e che si è dimessa perché sostanzialmente rifiuta di entrare nel meccanismo che la coinvolgerebbe in prima persona di valutazione degli insegnanti, che ha come obiettivo finale ovviamente i licenziamenti. E ci dice questa notizia, che abbiamo preso da un sito greco tradotto in italiano, che ci sono già numerosi presidi e dirigenti, come diciamo qui, che hanno adottato questa forma di protesta. Cari genitori, vi rivolgo questa lettera dopo la decisione che sono costretta a prendere di dimettermi dai miei obblighi come preside della nostra scuola. Come preside ho cercato sempre di formare e di mettere in rilievo la visione della nostra comunità scolastica nella realizzazione degli obiettivi scolastici. Sono riuscita a garantire la coesione e la buona collaborazione tra i membri del personale didattico, facendo il massimo della capacità e dell'inclinazione di tutto il personale. La traduzione è un po' approssimativa, ma insomma il senso penso che si capisca. Ho collaborato con l'associazione dei genitori, con ognuno di voi, per qualsiasi questione riguardante i vostri figli, in un clima di comprensione e di responsabilità. Con un alto sentimento di responsabilità nei confronti dei miei colleghi, ma anche nei vostri, confermando la mia posizione coerente, ho espresso la mia opposizione alla tentata valutazione dell'opera didattica e degli insegnanti. È ovvio che non si tenta così la promozione della scuola pubblica, ma al contrario la riduzione drammatica delle spese per l'educazione. Il collegamento dello sviluppo di reddito e di grado con la valutazione porterà dei licenziamenti già dalla prima fase di questa valutazione manipolazione punitiva. La connessione delle attività scolastiche con l'imprenditoria porterà ad una categorizzazione delle unità scolastiche. Ecco, noi con molta sincerità diciamo che questo passaggio del collegamento dello sviluppo di reddito e grado con la valutazione non siamo riuscite a capirlo, però insomma, ripeto, è molto chiaro il senso generale. Al contempo l'associazione degli insegnanti nella nostra scuola ha votato all'unanimità contro la sua applicazione, come è stato chiesto anche dalla Confederazione degli insegnanti della Grecia. Restando convinta quindi delle mie idee e della mia prospettiva sulla scuola pubblica e gratuita, unitaria e moderna, ho presentato le mie dimissioni senza acconsentire alla procedura autoritaria dell'obbligatoria attribuzione di una valutazione ai miei colleghi. Lo spirito libero e democratico dell'insegnante dovrà essere alto per poter così formare i cittadini liberi di domani, perché insegnante inchinato, popolo illetterato. Questa è virgolettata, è una citazione evidentemente, ma non so chi l'abbia detta. Chiudendo, vorrei ringraziarvi di cuore per la collaborazione sincera e il rapporto caloroso e assicurarvi che sarò sempre presente fino alla mia sostituzione nella nostra scuola per voi e per i vostri figli. Con stima la preside Stipana Chiotopoulou. Io volevo solo fare una notazione. Intanto è una situazione che quella greca di mettersi da un posto di lavoro, cioè una cosa che ovviamente ci lascia abbastanza così colpite, e fra l'altro recentemente leggevo, spulciando un po' i siti di notizie che noi, insomma, da cui noi attingiamo in parte per questa trasmissione, che c'è stata una sentenza, e non è la prima, che ha reintegrato un preside che era stato dimesso, cioè collocato a riposo per limiti di età, e per i presidi ovviamente, insomma, che non fanno un lavoro così faticoso, anche se spesso li sentiamo, questa giornata ho lavorato tanto, e cioè non è semplice lasciare il loro ben retribuito lavoro. Io non mi stancherò di ripetere che proprio pochi giorni prima del blocco dei contratti, i presidi ebbero, che era il 2010, ebbero il rinnovo del loro contratto con begli aumenti, che adesso non voglio essere imprecisa, ma insomma non sono quelli a cui siamo abituati noi, manovalanza, diciamo così. E quindi ovviamente rinunciare a questo, perché la pensione comunque è di meno, e rinunciare soprattutto alle prebende, l'indennità di direzione che si beccano, questo ovviamente li fa desiderare di rimanere al loro posto. Per cui dopo i magistrati, che possono rimanere fino ai 70 anni, e i docenti universitari lo stesso, adesso abbiamo una nuova categoria, dirigenti scolastici, che evidentemente se vogliono possono rimanere ai 70 anni, cosa che era permessa fino a qualche anno fa a chi non aveva maturato il minimo del periodo pensionabile, invece, oppure che voleva raggiungere il massimo. Poi questa cosa è stata abolita con i collocamenti a riposo d'ufficio, e però per i presidi, come per, rispetto a tante altre cose, questo ovviamente non vale. No, effettivamente, insomma, questa lettera che tu hai letto è impressionante per quello che tu dici, e anche per altri motivi. In qualche modo è impressionante perché riverbera una serie di considerazioni che più volte abbiamo fatto anche da questi microfoni rispetto al problema della valutazione, perché a questa persona, evidentemente, che evidentemente respira un'aria diversa rispetto a quella che si respira in Italia, un'aria forse più consapevole rispetto a quelli che sono gli obiettivi della valutazione, del sistema di valutazione, è molto chiaro, e probabilmente noi non ne abbiamo una cognizione precisa, però sarà stato anche misurato sui fatti che la valutazione degli insegnanti corrisponde in primo luogo, a quello che pare di capire, a un diverso sistema di progressione di carriera, e quindi a un sistema di incentivi economici distribuiti secondo i risultati di questa valutazione, e poi evidentemente anche a licenziamenti, alla perdita di posti di lavoro. E l'altra cosa che mi ha colpito è il riferimento, diciamo, a una progressiva connessione delle attività scolastiche con l'imprenditoria, e complessivamente, anche se il quadro che questa lettera ci presenta è drammatico, però è un po' la stessa aria che si respira qui da noi, qui in Italia, e che mi pare si respiri anche attraverso quelle che sono le ultime dichiarazioni, ultime delle moltissime dichiarazioni della neo ministra Giannini, perché mi sembra, insomma, che lei abbia fatto riferimento, ma forse qualcosa di più si può dire, in primo luogo alla amplificazione e all'aumento di tutti quanti quelli che sono i rapporti scuola-lavoro, che è un tasto particolarmente doloroso, insomma, per diversi ordini di scuola, e poi quello che sembra ormai certo è che dall'anno prossimo partirà il sistema nazionale di valutazione delle scuole, sistema nazionale di valutazione che sarà basato, se non altro, sugli invalsi e su quegli orribili quiz che ogni anno oramai i nostri studenti si trovano a dover affrontare, e che gli studenti delle scuole medie si trovano a dover affrontare come prova d'esame già da molto tempo. Quindi mi pare che in questa lettera noi possiamo in qualche modo intravedere quello che sarà l'esito progressivo di una riforma della scuola, diciamo di un nuovo atteggiamento rispetto a quella che è la libertà di insegnamento e la libertà del corpo docente. E a margine abbiamo cercato dov'è questo posto con l'Argos, ed è un comune dell'Attica che sta molto vicino ad Atene. think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. Shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often would you choose a hard or soft option? Rientrando in voce da L'Ora di Buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, ovviamente dai microfoni di Radio Onda Rossa. Riprendiamo parlando di valutazione, spostandoci dalla Grecia all'Italia, perché in questi giorni, come insomma chi ci ascolta probabilmente saprà, è in discussione, in via di finalizzazione, come credo direbbe Renzi, il DEF, cioè il documento di economia e finanza dello Stato. In alcuni punti ovviamente parla anche dello specifico della scuola, insomma dell'istruzione pubblica e anche dell'università. Si parla anche di valutazione a margine, insomma, delle discussioni sul DEF, perché sembra che ormai sia abbastanza sicuro che il sistema di valutazione delle scuole e degli insegnanti partirà da settembre, partirà secondo quell'impianto elaborato da sotto il governo Monti, quindi con ministro Profumo, e quindi con la valutazione che si basa sui risultati delle prove invalsi, che sono questi quiz, si ricordava anche poc'anzi, di cui tanto abbiamo parlato anche a questi microfoni, quiz a crocette a cui vengono sottoposti studenti e studentesse dalla primaria fino adesso alla seconda superiore, ma dovrebbe entrare anche all'esame di maturità. Quindi un sistema di valutazione delle scuole che si baserà sui risultati delle prove invalsi, quindi su dei risultati che a nostro parere hanno veramente poca attinenza con la capacità educativa formativa di un istituto, con l'INDIRE, che è un istituto del Ministero dell'Istruzione, che interverrà a organizzare corsi eventualmente per migliorare le prestazioni, questo è il termine, delle scuole, anche grazie all'invio di materiali, ispettori, insomma. Allora, gli ispettori e le ispettrici per ora non ci sono, sostanzialmente non esistono, quindi l'unica cosa che esiste realmente è l'invalsi, su cui verranno redatte delle graduatorie di scuole, e questo è quello che di fatto succederà in maniera concreta. Poi come l'INDIRE interverrà è tutta ancora da vedere. Sì, quello che sembra di capire, insomma, è che per tutti ci sarà una prima fase di valutazione, che sarà un'autovalutazione delle scuole basata sull'invalsi, fondamentalmente su un fascicolo che verrà redatto sulla base dei risultati dell'invalsi. Quindi in buona sostanza la sensazione è che quello che era un carico che in passato andava a carico appunto dell'invalsi, cioè quello in qualche modo della somministrazione, della correzione delle prove, almeno teoricamente, perché poi questa cosa è sempre stata fatta dagli insegnanti, a questo punto a livello istituzionale sarà parte del processo di autovalutazione delle scuole, e quindi le scuole dovranno farlo, dovranno compilare dei questionari con i risultati dei test invalsi corretti all'interno delle scuole e inviare l'esito di questo processo di autovalutazione. Dopodiché, sulla base di questo processo di autovalutazione, potranno scattare le fasi successive, e quindi potrà scattare l'invio di ispettori esterni, che come dicevi non ci sono ancora, lettera e poi eventuali azioni di miglioramento che potranno essere portate avanti dall'INDIRE o dalle università, e dopodiché ovviamente ci sarà la pubblicazione dei risultati in regime di assoluta trasparenza. Poi c'è sempre la cosa che era stata detta, siccome se ne parla esplicitamente per quanto riguarda l'università, degli incentivi all'università che si classificheranno meglio, però evidentemente questo riguarda pure le scuole, perché una valutazione fine a se stessa di una scuola no, è dietro in realtà il progetto che c'è, che io temo che ci sia, ma che voglio esplicitare perché mi sembra che nell'impianto neoliberista, e si vuole imporre, questo c'è, è che con il nuovo contratto, che ancora non c'è, con il nuovo contratto nazionale, insomma scaduto ormai da tempo, si parla di rinnovarlo entro la fine di quest'anno o all'inizio del 2015, quello che si vuole fare è togliere gli scatti d'anzianità e invece dare, diciamo, degli incentivi su una base che viene definita meritocratica, e che anche questa sarebbe regolamentata attraverso sempre questo impianto di valutazione. Non esiste una normativa che dice questo in questo momento, ma no. Sono discorsi che si rincorrono ormai da anni, ministro dopo ministro. Sì, c'è questa cosa del merito che insomma sembra che l'ha scoperta Renzi, no? E che quindi ne fa una bandiera. E quindi il merito, il discorso del contratto è che per esempio i sindacati, la CGIL quantomeno, chiedono a gran voce il rinnovo almeno della parte normativa. Noi abbiamo detto, non so, un po' per Celia, un po' per non morire, che è meglio che a questo punto il contratto per la parte normativa rimane così com'è. Perché appunto, sì, anche che non ci danno i soldi, non perché non si rinnova per quella economica, però ci peggiorano, però ci peggiorano la parte normativa, e questo già è successo. Io non ricordo adesso se due settimane fa l'abbiamo accennato, forse no, perché è una cosa abbastanza fresca, che adesso sulla base di una legge più ampia, insomma un decreto più ampio che è fatto mi pare nel 2000, insomma non mi ricordo in quale governo, comunque nel 2013 è stato ribadito. E poi è uscita una circolare applicativa della funzione pubblica a febbraio, e sì, forse ne abbiamo parlato, ma è importante ribadirlo, non mi ricordo se l'ho detto in rassegna stampa, ma insomma, che praticamente prima, ed era esplicito, e c'è anche una contraddizione nella circolare che non ho adesso con me, che le cosiddette visite specialistiche, quindi quelle fatte anche privatamente o nelle strutture o da un privato, insomma c'è la libertà pure di farsi curare da chi insomma noi riteniamo di fiducia, oppure indagini di laboratorio eccetera, che possono prendere l'intera mattinata, o per quanto riguarda per esempio i docenti scavallare la metà dell'orario giornaliero, no? Oltre il quale non è più permesso ma è tutta la giornata, insomma erano considerate malattia e sottoposte tranquillamente alla decurtazione dei primi 10 giorni continuativi. Quindi insomma, chi, dato che l'età ormai media degli insegnanti non è insomma esattamente verde, e anche in uno spirito di risparmio, no? Sottoporsi anche a un'opera di prevenzione, quindi di analisi eccetera, insomma è qualche cosa che dovrebbe essere incentivato. Invece no, invece questo proprio d'imperio deve rientrare nei permessi personali, che sono 3 l'anno per il personale di ruolo e non sono invece retribuiti per il personale precario, che quindi non si sa che cosa potrebbe fare, o altrimenti i permessi che devono essere recuperati. In tutti e 2 i casi è necessaria, quindi anche per il permesso personale, per motivi personali familiari come si chiamano, quindi andare a farsi una mammografia diventa un motivo personale come imbiancare casa, e ci vuole l'attestazione del medico, a meno che questo tipo di indagine o di visita o quello che è non comporti un'inabilità al lavoro. Facciamo un esempio: ti fai una coloscopia, scusate se adesso entriamo e ovviamente dopo, siccome magari sei sedato e tutto, non puoi tornare al lavoro, anche se in pratica ti ha tolto, diciamo, una parte che potrebbe rientrare nel permesso orario. Questa magari ci ripenseranno, perché questo gli fa mancare poi i soldi che loro decurtano, e che insomma poi alla fine dell'anno non sono pochissimi, magari uno lì per lì non se ne accorge, ma insomma poi quando, siccome i primi 10 giorni di malattia, e quando uno ha già 10 giorni di malattia evidentemente c'ha una cosa non proprio semplicissima, insomma comportano una decurtazione abbastanza che si sente. E questo è assurdo anche perché in precedenza c'erano state delle interpretazioni che proprio rispetto evidentemente a interventi anche insomma di presidi, cioè non parliamo soltanto della scuola, qui parliamo di tutto il pubblico impiego, che dicevano che non si può andare a sindacare quello che fa una persona quando si sottopone a una terapia oppure a un'indagine di laboratorio strumentale o una visita specialistica, perché insomma quello attiene alla sua privacy. Ed è, tu puoi andare a fare una visita, ti viene data una diagnosi, di fatto tu non stai male, però insomma ecco formalmente, ma ovviamente di tornare a scuola, questo, oppure ti prendi le ferie, insomma questa non è una cosa da poco, è anche una cosa diciamo in controtendenza rispetto a quello che si dovrebbe sempre insomma incentivare, ripeto, che è quello di, a parte appunto lo stato di malattia, la necessità appunto di ricorrere a queste prestazioni, ma anche la buona regola di sottoporsi a indagine proprio per una prevenzione che poi eviti problemi maggiori alla persona e ovviamente una spesa maggiore per la sanità. Sì, per chiudere insomma questo discorso su valutazione e merito, non apriremo, ma lo ricordiamo, ne abbiamo parlato tante volte, che poi insomma puntare tutta la valutazione delle scuole, degli insegnanti in prospettiva dei dirigenti e quindi l'erogazione di soldi su questo tipo di test significa di fatto spingere, se non obbligare, gli insegnanti ad addestrare gli studenti a rispondere a testa a crocette, e questo significa modificare profondamente quello che significa insegnare. Sì. E quello che significa anche imparare, cioè quindi insomma non voglio aprire adesso questo discorso perché è molto ampio e ne abbiamo parlato molto, magari ne riparleremo, però insomma dietro a questo, a queste due parole, valutazione e merito, c'è essenzialmente secondo me cosa significa scuola, cosa significa imparare, cosa significa insegnare, oltre a tutto quello che abbiamo detto fin qui. No, ma infatti quello che si vuole stimolare in maniera proprio angosciante è una vera e propria rivoluzione culturale sostanzialmente, e l'aspetto che tu mettevi in evidenza adesso è sicuramente l'aspetto più rilevante, e questo aspetto ha poi delle conseguenze marginali che sono, oltre a quello che si è detto, per esempio il fatto che si tende a stimolare tantissimo in questa maniera anche la concorrenza, il regime di concorrenzialità tra le scuole, per cui il fine anche del sistema nazionale di valutazione è di proporre dei test che si ritiene possano misurare l'apprendimento degli studenti, e poi fare in modo che le scuole, in quello strumento odioso che è scuola in chiaro, pubblichino, no, in un regime di trasparenza i risultati di questi test, in maniera tale che poi sia possibile per il cosiddetto utente confrontare la scuola più o meno efficace e mettere così le scuole in concorrenza tra le altre. E questo evidentemente piega veramente tutto quello che è l'impianto culturale di una nazione sostanzialmente. Sì, ma anche perché funziona alla rovescia questa cosa, perché le persone normalmente non possono scegliere dove mandare i figli a scuola, nel senso che non guardiamo solo la grande città, ma quando uno vive in una città di provincia, per ogni tipologia di istituto ce n'è uno, non è che ce ne sono 15, normalmente le persone non hanno i soldi per mandare i figli molto lontani da casa, è molto complesso. Questo significa non tanto che le persone sceglieranno sulla base della capacità di quella scuola, ma al contrario, che il tuo diploma non conterà nulla se non sarà preso in una di nelle scuole iperblasonate, e quindi di fatto funziona esattamente alla rovescia. Sì, ma non è solo sull'utenza che funziona su chi è dentro la scuola, no? Per cui questo carica di importanza lo strumento del test, Questo è il punto, perché tu sai benissimo che già la concorrenza tra le scuole è attiva ed è molto attiva su cose che non hanno nessuna importanza, su nessuna ricaduta su quello che i ragazzi sanno o non sanno, ma è importante se fanno il viaggio di istruzione da una parte piuttosto che un altro corso. Se fanno il convegno. Esatto, il convegno su mio nonno e così via. Cioè mettere in evidenza la concorrenzialità, stimolare la concorrenzialità dalle scuole, toglie senso alle della scuola di Stato, sostanzialmente, che dovrebbe garantire un'equità, un livello quantomeno, invece, insomma, più o meno. Ma fa parte l'altro cavallo di battaglia che viene portato avanti, per ora non ci sono ancora riusciti, ma manca pochissimo a mio parere, proposto già da Berlinguer, poi portato avanti da tanti ministri, adesso riproposto a gran voce da Renzi, è l'eliminazione del valore legale del titolo di studio, che è il completamento di questo, cioè quando si potrà effettivamente dire che non tutti i diplomi valgano uguale, ma se io ho preso un diploma, un istituto tecnico nel centro di Roma varrà in un modo, se l'ho preso magari in una città di provincia varrà in un altro modo, se l'ho preso in un quartiere di periferia varrà in un altro modo ancora, e questo sarà il completamento di questo percorso, certo. Cioè quando nemmeno gli stessi diplomi avranno più neanche sulla carta lo stesso valore formale. Però io ho bisogno di uno strumento per dimostrarla questa cosa, e quello strumento sono i quiz invalsi. Io vorrei dire a quei docenti, a quelle docenti, per non parlare dei dirigenti con cui insomma non dialoghiamo noi, non ci interessa, stanno da un'altra parte della barricata, diciamo così, che questo loro paludarsi spesso, no, e sgomitare, paludarsi e ammantarsi del fatto che stanno in determinate scuole che si presume siano di prestigio ma con i criteri di cui parlavamo prima, o sgomitare per entrarci dopo, insomma, c'è gente che veramente fa tutti gli anni il trasferimento perché va andare in quella scuola, non sono tantissimi, ma insomma io che sono in un determinato liceo l'ho vista, il sogno della vita, oppure se ci stai eccetera, che è un atteggiamento suicida, è suicida proprio nei confronti della professione, nei confronti della, insomma, sia da un punto di vista professionale che di categoria, no? Anche perché adesso poi è detto molto chiaramente nel MEF, nel DEF, scusa, il MEF è quello che ci dà, ci elargisce l'elemosina mensile, che questo verrà messo appunto nel nuovo contratto, questa valutazione anche dei docenti, cercheranno di fuggire da queste scuole che sono poi svalutate, diciamo, e poi c'è anche il discorso del reclutamento che, di cui si parla con criteri diversi, ecco, reso più rapido ed efficace sotto l'aspetto amministrativo, e deve garantire una selezione effettiva delle migliori professionalità. Questo prelude assolutamente al reclutamento diretto, alla chiamata diretta come vediamo nei film americani, no, da parte dei dirigenti, che in un caso dove uno, no, fosse tranquillo e sicuro che sono criteri oggettivi, perché non è che tu dico che devi pescare, è un lavoro delicato, su, non è che lo devi fare per forza, no? Bisogna che c'hai voglia di farlo, in teoria dovrebbe essere così. Per cui, però, siccome questo noi sappiamo che non è, che non sarà così, una volta c'era la chiamata diretta, non entravi in ruolo, parliamo di 35-40 anni fa, per cui non c'erano queste graduatorie né per gli ATA o non docenti, come si chiamavano, né per i docenti. Per cui il preside chiamava chi gli pareva, praticamente, no? E nel migliore dei casi lo faceva per l'amicizia, no? Perché conosceva, cioè dico perché nel migliore dei casi, perché magari si preoccupava anche che insomma sta persona, e c'è gente che si è fatta il ruolo, poi che è entrata di ruolo in questo modo, e le mie giovani compagne di trasmissione questa cosa non l'hanno vissuta, però era così, cioè c'è gente che ha fatto la supplente di educazione fisica col diploma di ragioniere, e che ovviamente questo non gli è valso poi magari per ricostruzione di carriera eccetera, però gli è valso per la pensione, gli è valso per il punteggio, no? Per entrare poi magari a un livello inferiore, eppure il criterio della valutazione è lo stesso, è l'arbitrio totale del dirigente. Si è preparata prima questa figura, no, di estremo potere, cosiddetta manageriale, la quale poi ovviamente sto potere lo eserciterà, che se ci si arriverà io credo che lo eserciterà spesso a nome e per conto di lobby o potentati vari, insomma non sarà neanche il fatto prende il cugino, ma tutto sommato, no? Ma prenderà da una parte il cugino Torino, dall'altro sei dell'Opus Dei, prenderà gente dell'Opus Dei e così via, insomma, di fatto si dice anche già questa cosa, neanche si nasconde, perché si dice che è corretto che la singola scuola abbia il suo orientamento culturale. Avendo il suo orientamento culturale, che significa? Questo significa che se il preside dell'Opus Dei non c'entrerà un comunista o comunque una persona palesemente laica o anticlericale, o semplicemente che non appartiene a quella conventicola, come dice un famoso film in cui si parla anche di scuola, insomma. E parlare, insomma, nel DEF appunto si parla di sistema di reclutamento, di valutazione e merito, di incrementare il rapporto scuola-lavoro, quindi l'apprendistato, i tirocini formativi presso le aziende, l'alternanza scuola-lavoro, cioè di far lavorare gratuitamente gli studenti, spesso di questo si tratta, e si rinnova il blocco degli scatti, appunto, si dice che sono bloccati fino al 2018, questo è più o meno quello che si dice. Pure la questione dell'edilizia, e vabbè, lì ne ha parlato tanto Renzi, scherzavamo l'altra volta sulle lettere con la segnalazione di almeno una scuola, no? Che i comuni, i sindaci avrebbero dovuto mandare a Renzi, ma la cosa invece che a me preoccupa è che si parla, adesso non lo ritrovo, ma insomma cito a memoria, si parla per quanto riguarda l'edilizia proprio di una sorta di mano libera ai sindaci o alle province, ma le province non ho ancora capito se ci saranno o non ci saranno, sinceramente questa cosa non sì, ci saranno, ma non sì, elettive. Non... Sì, ma insomma, saranno quindi, organismi nominati. Saranno nominati. E quindi ecco, si è inclusa la definizione di procedure snelle, no? Perché uno dice ah bello, perché adesso c'è questo mostro che sta gira per l'Italia che è la burocrazia, inclusa la possibilità di concedere poteri derogatori a sindaci e presidenti di province per l'aggiudicazione e la realizzazione dei lavori, quindi proprio capite questo che vuol dire, no? Che c'è la chiamata diretta, non del professore, ma della ditta, e insomma se vediamo quello che sta succedendo, abbiamo visto pure all'Expo tanto decantato, insomma una serie di arresti, per cui immaginiamo che poi questo significa, cioè voglio dire, se nella scuola poi vai a lavorare in un certo modo dal punto di vista dell'edilizia, insomma poi te casca in testa e t'ammazza il controsoffitto, insomma è un problema, penso che sia importante. Nella mia scuola per esempio adesso, dopo aver fatto una serie di lavori che non vi dico, aveva imbiancato tutto, adesso di punto in bianco stanno cambiando tutte le porte e le stanno mettendo di metallo, belle grosse, quindi significa poi rimbiancare un'altra volta, ristuccare tutti i buchi. Io non so se questa è una procedura snella, ditemi voi. Comunque, per tornare invece all'atteggiamento suicida di tanti docenti e docenti, insomma, che continuano a non voler vedere quello che ci sta cascando in testa e che per la verità in gran parte ci è già cascato in testa, niente, noi gli dedichiamo Rock and Roll Suicide di David Bowie e poi torniamo in voce. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift breaks are snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but a hug can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the lies seem to lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone. Qualche puntata fa, qui all'Ora di Buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola su Radio Onda Rossa, abbiamo parlato delle iscrizioni, abbiamo parlato del calo di iscrizioni nei licei classici, che poi sono dati che si rincorrono, quelli ufficiali non sono ancora usciti. C'è chi dice che c'è la metà degli iscritti, chi invece che non c'è nessun calo, che calo. Comunque, diciamo, noi è dello 0,1% a livello nazionale. C'eravamo un po' spese, insomma, a dire che il liceo classico è un tipo di scuola a cui così le persone che stanno dentro questa stanza oggi tengono, perché lo ritengono, come dire, formativo come percorso di istruzione, e questo ovviamente non è che abbiamo cambiato idea in 20 giorni. Però a volte, quando i licei classici si propongono in un certo modo, ti viene anche da pensare: ma che cali sto liceo classico, a volte anche che scompaia, nel senso che c'è stata un'iniziativa di 3 giorni nei licei classici romani, molto molto blasonati. E che licei classici? Non, insomma, in quelli in cui normalmente tocca di lavorare, ma insomma si sta parlando in particolare del Visconti, del Virgilio e del Giulio Cesare, hanno fatto appunto questa 3 giorni per così discutere del perché c'è un calo di iscritti e di iscritte al liceo classico, e cosa ne viene fuori? Ne viene fuori, io l'ho sentita così raccontare per radio su un'altra emittente, ne viene fuori una passerella di grandi nomi in cui ci si ricorda che le scuole non sono tutte uguali, che se vai al Visconti non è che se vai come da un'altra parte, perché al Visconti magari viene pure la ministra in persona a parlare di questo, oppure che è un motivo per non andarci. Che è un motivo per non andarci, è l'ambasciatore di Grecia, che non si capisce che c'entra, dice la preside, lo sentita, io diceva, perché siccome si parla di lingue classiche, allora abbiamo invitato l'ambasciatore di Grecia, allora, che parla il greco moderno. Probabilmente manco lo capisce il greco antico. E poi si può chiamare un romano qualunque, perché il latino insomma, è dentro di noi. Dentro di noi e dentro di voi, perché io insomma sono nata da un'altra parte. E poi grandi nomi del, non so, del giornalismo, Gian Antonio Stella, oppure così via. Giovanni Maria Flick, che adesso sta in Corte Costituzionale, ma prima ne ha fatte di cotte e di crude come avvocato. Insomma, una rassegna di tromboni, così, della buona borghesia romana, e ti viene da pensare, vabbè, ma che chiuda allora sto liceo classico? Ma se sprofonda, alla fine è la stessa cosa. Cioè, questo un po' a me, non so quello che ne avete pensato voi, insomma, aspetto la vostra di opinione. Non abbiamo sentito questa trasmissione, ma già da come è impostata tutta la cosa nella circolare del Visconti, reperibile sul sito tranquillamente, quindi non abbiamo niente di, e che lancia questa cosa, e sono tutti molto trendy, perché è strutturato il processo in trattino attualità del liceo classico, una mattinata di interventi per un processo agli studi classici sulla base dell'accusa della loro inattualità, e quindi accusa, difesa, testimoni a favore, contro, argomenteranno per permettere a un collegio di probi viri di formulare un verdetto motivato a conclusione dei lavori, che insomma è ovvio che è già scontato, perché insomma non è che la gente si fa harakiri, perché sarebbe interessante che poi uscisse fuori che Albertelli, Virgilio e Visconti, vabbè, ma che ci stiamo a fa', sarebbe anche insomma un bel coup de teatro, insomma un'ignobile pagliacciata in cui di fatto non si discute seriamente di cosa significa insegnare nel 2014, né di cosa significa andare a scuola nel 2014, perché si parla due ore a definire se un de, che è una particella del greco antico, ha un valore avversativo o non so di che, non so se è avversativo o diciamo confermativo, cioè se quel de è ma o se quel de è certamente, in buona sostanza. Sì, è questo, quindi, il problema. Quindi l'iperspecialismo da un'altra parte, dall'altra si invita Confindustria, perché si deve riproporsi, che in una veste, che ci fa con quelli del liceo classico e soprattutto con il de, e poi si fa una galleria di grandi nomi. E poi si continua a dire Kai, che sarebbe la E del greco antico, che penso che i greci antichi non hanno mai pronunciata in questo modo. Del resto, a parte gli scherzi, una delle idee che non prende piede è, per esempio, di introdurre, non a livello magari ovviamente di programma, ma anche a livello di una buona spesa dei soldi, che dei contributi volontari degli studenti per l'iscrizione, magari lo studio del greco moderno potrebbe essere un incentivo, perché uno dice vabbè, almeno, no? Ci sì, faccio almeno qualche cosa. Vedo il risvolto di attualità di quello che faccio, mi rendo conto che è una lingua che ha avuto un esito e così può via. Avere un'utilità, perché so, non è che ci siano ste folle che parlano greco moderno, quindi insomma potrebbe essere una cosa stimolante. Insomma, questo proprio parte poco. Ma effettivamente quello che è venuto in mente a me, insomma, leggendo questa cosa e sentendo parlare del primo incontro, solo del primo incontro, dove non sono stata, ma ne ho sentito parlare, è che quello che veramente sfugge a queste persone è che il liceo classico è una scuola che oggi ha dei problemi seri, una scuola che ha dei problemi seri che si riverberano comunque nel calo di iscrizioni, c'è stato o non c'è stato, però comunque c'è un battage che dice che è inutile a livello di mass media, dico, studiare, perché alla fine se tu fai un istituto tecnico è molto meglio, c'hai il lavoro in mano e così via dicendo, e ha un problema molto serio a livello di didattica, a livello del senso che ci diamo e che ci cambiamo ogni volta che entriamo in classe con i nostri studenti. Questo è un problema che questo tipo di impostazione ignora completamente, sia perché affida la ricerca di senso a professori universitari che sono in un contesto che è completamente altro e che appunto passano 20-25 minuti a parlare di idee come se stessero facendo una lezione ai loro studenti, e i loro stessi studenti li capiscono male, ma invece non si pongono nell'ottica del livello di partenza, di come vedono arrivare quegli studenti all'università, e questo, di questo dovrebbero rendersi conto, e dovrebbero aiutare un po' chi è veramente molte volte disperatamente solo alla ricerca di un senso di quello che fa e di una scelta di quello che va trasmesso, oppure no, a dare un indirizzo di senso che possa contribuire a restituire senso a questa scuola. Questo non c'è. Se invece aveste sentito parlare, come è capitato a me, la preside del liceo Visconti, avreste capito perfettamente come lo vogliono salvare questo liceo classico, cioè facendolo tornare a essere la scuola della classe dirigente. Allora, se questo è, che chiuda il liceo classico con tutti i filistei. E detto questo, dedichiamo la canzone Avvenire, con cui facciamo la sigla, agli studenti, alle studentesse del Virgilio, del Visconti e in particolare del Giulio Cesare. E vi diamo anche la notizia che è morta in questi giorni Emma Castelnuovo, grande matematica di cui abbiamo parlato da questi microfoni, e quindi insomma anche grande pedagogista. Grande pedagogista, e insomma potete riascoltare la trasmissione che le abbiamo dedicato. Ci sembra anche giusto, insomma, in qualche modo salutarla dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. L'ora di buco tornerà a trasmettere il 29 aprile. Ovviamente lavoriamo a scuola e quindi noi per le vacanze di Pasqua non trasmettiamo, anche se gli ATA lavorano per le vacanze di Pasqua. Eravamo 34, quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66, la regina d'Inghilterra era Pelé. Sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa smania che mi porta via, sta crescendo. Oh, come me. Eravamo 34, quelli della terza E, sconosciuto il mio futuro dentro me. E mio padre una montagna troppo alta da scalare, nel paese una coscienza popolare. Sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa rabbia che mi porta via, sta crescendo. Come noi sta crescendo.